Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Che ne è stato di questo Danglars? Domandò l'abate a Caderousse. Che ne è stato? Lascio a Marsiglia con una raccomandazione di Morrel, che ignorava il suo delitto, e poté entrare come commesso presso un banchiere spagnolo. All'epoca della guerra di Spagna si incaricò di una parte delle forniture dell'esercito francese e fece fortuna. Con questo primo danaro speculò nei fondi pubblici, triplicando e quadruplicando i suoi capitali. Poi, vedovo della figlia del suo banchiere, sposò una vedova, la signora di Nargon, figlia del ciambellano del re e che gode dei più grandi favori a corte. Divenuto milionario, lo hanno nominato barone e ora è il barone di Danglars, con un palazzo in Rue Mont Blanc, 10 cavalli nelle scuderie, 6 lacchè in anticamera e non so quanti milioni in cassa. E Fernand? Ah, Fernand è tutta un'altra cosa. Come mai un povero pescatore catalano senza risorse e senza educazione ha potuto fare fortuna? Non riesco a capirlo, ve lo confesso. Nessuno riesce a capirlo. Nella sua vita deve esserci qualche strano segreto che nessuno conosce. Ma mi state raccontando una favola. Il fatto è che ne ha tutta l'apparenza. Ascoltate e capirete. Pochi giorni prima che ritornasse Dantès, Fernand era stato incluso nelle liste di coscrizione. I Borboni lo lasciarono tranquillo ai catalani, ma al ritorno di Napoleone fu ordinata una leva straordinaria e Fernand fu costretto a partire. Arruolato nelle truppe attive, raggiunse la frontiera con il suo reggimento e assistette alla battaglia di Ligny. La notte successiva alla battaglia era di piantone alla porta di un generale che aveva relazioni segrete con il nemico e che quella notte stessa doveva riunirsi agli inglesi. Il generale gli propose di accompagnarlo. Fernand accettò, abbandonò il suo posto e seguì il generale. Ciò che avrebbe potuto condurlo davanti ad un tribunale di guerra se Napoleone fosse rimasto sul trono gli servì come raccomandazione presso i Borboni. Rientrò in Francia con la spallina di sottotenente e siccome non gli mancava la protezione del suo generale, divenne capitano nel 1823, all'epoca della prima guerra di Spagna, cioè al tempo in cui Danglars arrischiava le sue prime speculazioni. Fernand era spagnolo e fu inviato a Madrid per sondare le intenzioni dei suoi compatrioti. Là ritrovò Danglars e si accordarono. Poi promise al suo generale l'appoggio dei realisti della capitale e delle province. Guidò il suo reggimento per sentieri solo a lui noti fra le gole occupate dai realisti e infine in questa breve campagna rese tali servigi che dopo la presa del Trocadero venne nominato colonnello e ricevette la croce di ufficiale della Legione d'Onore insieme al titolo di conte. Destino, destino, mormorò l'abate. Sì, ma ascoltate, non è ancora tutto. Terminata la guerra di Spagna, la carriera di Fernand si trovava messa a repentaglio dalla lunga pace che doveva regnare in Europa. La Grecia soltanto era sollevata contro la Turchia e cominciava la guerra della sua indipendenza. Tutti gli occhi erano puntati su Atene. Era di moda compiangere e sostenere i greci. Il governo francese tollerava le spedizioni parziali. Fernand sollecitò e ottenne il permesso di andare a combattere in Grecia, continuando però a essere iscritto nei registri dell'esercito. Qualche tempo dopo si seppe che il conte di Morcerf, tale era il nome che portava, era entrato al servizio di Ali Pascià con il grado di generale istruttore. Ali Pascià fu ucciso, come sapete, ma prima di morire ricompensò i servigi di Fernand lasciandogli una somma considerevole, con la quale egli tornò in Francia, dove gli venne confermato il grado di luogotenente generale. «E oggi?» domandò l'abate. «Oggi?» proseguì Caderousse. Oggi possiede un magnifico palazzo a Parigi, in Rue du Helder, 27. L'abate aprì la bocca. Si fermò un attimo esitando. Quindi, facendo uno sforzo su se stesso, chiese: «E Mercedes? Mi hanno assicurato che scomparve?» «Sì, sì», disse Caderousse. «Scomparve come sparisce il sole per rialzarsi l'indomani più splendente». «Anche lei ha fatto fortuna?» domandò l'abate con un sorriso ironico. «Mercedes a quest'ora è una delle più grandi dame di Parigi», rispose Caderousse. «Continuate», disse l'abate. «Mi sembra di ascoltare il racconto di un sogno». «Mercedes dapprima si disperò per il colpo subito con la perdita di Edmond. Nel pieno della disperazione venne a colpirla un altro dolore, la partenza di Fernand, di cui lei ignorava il delitto e che considerava come fratello. Fernand partì e Mercedes rimase sola. Passò 3 mesi in lacrime. Nessuna notizia né di Edmond né di Fernand. Nient'altro davanti agli occhi che un vecchio moribondo disperato. Una sera, dopo essere rimasta tutto il giorno seduta come sua abitudine all'angolo delle 2 strade che da Marsiglia conducono ai Catalani, ritornò nella baracca, triste, triste come non lo era mai stata. All'improvviso le sembrò di udire un passo conosciuto. Si volse con ansia, la porta si aprì e vide comparire Fernand con l'uniforme di sottotenente. Non era lui che Mercedes piangeva, ma era una parte della sua vita passata che ritornava a lei. Strinse le mani di Fernand con trasporto tale che questi credette fosse amore, mentre non era che la gioia di non essere più sola al mondo e di vedere un amico dopo lunghe ore di triste solitudine. E poi Fernand non era mai stato odiato né amato. Ecco tutto. Un altro occupava interamente il cuore di Mercedes e quest'altro era assente, era sparito, forse era morto. D'altra parte il vecchio Dantès non cessava di dirle: «Il nostro Edmond è morto, perché se non fosse morto, ritornerebbe». Il vecchio morì. Se fosse vissuto, Mercedes forse non sarebbe mai diventata la moglie di un altro, perché il buon vecchio sarebbe sempre stato là a rimproverarle la sua infedeltà. Fernand lo capì e ritornò solo quando seppe della morte del vecchio. Questa volta era tenente. La prima volta non aveva detto una parola d'amore a Mercedes. La seconda le ricordò che l'amava. Mercedes domandò 6 mesi ancora per aspettare e per piangere Edmond. E 6 mesi dopo ebbe luogo il matrimonio nella chiesa di Jacoule. «Era la stessa chiesa dove avrebbe dovuto sposare Edmond», mormorò l'abate. «Solo che era cambiato il marito. Ecco tutto». «Mercedes dunque si sposò», continuò Caderousse, «e benché agli occhi di tutti sembrasse tranquilla, svenne passando davanti alla Reserve, dove 18 mesi prima era stato celebrato il fidanzamento con colui che avrebbe capito di amare ancora se solo avesse osato guardare nel fondo del suo cuore. Fernand era più felice, ma non più tranquillo. Lo vidi all'epoca, temeva sempre il ritorno di Edmond. Si occupò subito di espatriare con sua moglie e di esiliarsi con lei. 8 giorni dopo le nozze partirono». «Rivedeste più Mercedes?» domandò l'abate. «Sì, sì, al tempo della guerra di Spagna, a Perpignan, dove Fernand l'aveva lasciata, e allora si occupava dell'educazione di suo figlio». L'abate rabbrividì. «Di suo figlio?» disse. «Sì!» rispose Caderousse. «Del piccolo Albert!» «Ma per istruire questo figlio», continuò l'abate, «avrà ricevuto anche lei un'educazione. Mi sembra di aver sentito dire ad Edmond che era figlia di un semplice pescatore, bella, ma non istruita». «Oh!» disse Caderousse. «Allora lui conosceva poco la sua fidanzata. Mercedes avrebbe potuto diventare regina, signore, se la corona dovesse posarsi soltanto sulle teste più belle e più intelligenti. La sua fortuna cominciava a crescere e lei, con la sua fortuna, imparava il disegno, la musica, tutto, tutto. D'altra parte io credo, sia detto fra di noi, che facesse tutto ciò solo per distrarsi, per dimenticare, e che riempisse la sua testa di tante conoscenze solo per scacciare ciò che aveva in cuore. Ma ora tutto deve essere detto, continuò Caderousse. La fortuna e gli onori l'hanno senza dubbio consolata. È ricca, è contessa e tuttavia... Caderousse si fermò. Tuttavia che cosa? Domandò l'abate. Tuttavia sono sicuro che non è felice. Prendete, amico mio, disse l'abate. Prendete questo diamante, poiché vi appartiene. Come? A me solo? Gridò Caderousse. Ah, signore, ma voi vi burlate di me! Questo diamante doveva essere diviso fra gli amici di Edmond, ma egli non aveva che un solo amico, e la divisione diventa dunque inutile. Prendete questo diamante e vendetelo, vale 50.000 franchi, ve lo ripeto. E spero che questa somma basterà per togliervi dalla miseria. Oh, signore, disse Caderousse, tendendo timidamente una mano mentre con l'altra si asciugava il sudore che gli imperlava la fronte. Oh, non potete prendervi gioco della felicità e della disperazione di un uomo. Io so che cos'è la felicità e cos'è la disperazione, e non mi prenderei mai gioco di questi sentimenti, rispose l'abate. Prendete dunque, ma in cambio... Caderousse, che già stava toccando il diamante, ritirò la mano. L'abate sorrise. In cambio, continuò, regalatemi quella borsa di seta rossa che il signor Morrel aveva lasciato sul caminetto del vecchio Dantès e che mi avete detto essere ancora nelle vostre mani. Caderousse, sempre più meravigliato, si avvicinò a un grande armadio di quercia, lo aprì e diede all'abate una borsa ovale di seta e di un rosso sbiadito, intorno alla quale scorrevano due anelli di rame un tempo dorati. L'abate la prese e in cambio gli diede il diamante. Quindi si alzò, prese il cappello e i guanti, e liberandosi a gran fatica dalle dimostrazioni di entusiasmo di Caderousse, levò la sbarra della porta, uscì, risalì a cavallo. Salutò un'ultima volta l'oste che si profondeva in addii calorosi e partì, seguendo la stessa direzione che aveva tenuto nel venire. Qualche giorno più tardi, l'incaricato della casa Thompson & French di Roma si presentò al signor Morrel. L'inglese trovò il signor Morrel dietro il suo scrittoio, preoccupato delle colonne spaventose dei registri su cui stava scritto il suo passivo. 14 anni avevano cambiato molto l'onesto commerciante, il quale, 36enne al principio di questa storia, stava per compiere i 50. I capelli erano incanutiti, la fronte era solcata da profonde rughe e lo sguardo, in altri tempi così fermo e sicuro, era diventato vago e irresoluto e sembrava dovesse sempre temere di fissarsi sopra un uomo o sopra un'idea. L'inglese lo guardò con un sentimento misto di curiosità e interesse. «Signore», disse Morrel, a cui questo esame sembrava raddoppiare il malessere, «desideravate parlarmi?» «Sì, signore. La casa Thompson & French ha 300-400 mila franchi da pagare in Francia, parte nel mese corrente e parte nel prossimo, e conoscendo la vostra rigorosa puntualità ha riunito tutte le cambiali che ha potuto trovare con la vostra firma e mi ha incaricato, mano a mano che queste scadono, di riscuotere la somma e di farne uso.» Morrel emise un profondo sospiro e si passò la mano sulla fronte, coperta di sudore. «Voi dunque, signore?» domandò Morrel. «Avete delle cambiali firmate da me? Ecco qui», disse l'inglese levandosi di tasca un plico. «Queste sono cambiali firmate da voi e passate a nostro nome da terzi firmatari. In tutto sono 287.500 franchi.» «287.500 franchi», ripeté macchinalmente Morrel. «Sì, signore», disse l'inglese e continuò dopo un momento di silenzio. «Non vi nasconderò, signor Morrel, che mentre tutti fanno gli elogi della vostra probità senza macchia fino al momento presente, corre voce per Marsiglia che voi non siate in grado di far fronte ai vostri affari.» A quell'esordio così brutale Morrel divenne spaventosamente pallido. «Signore», disse, «fino a questo momento nessuna cambiale firmata da Morrel e figlio è stata presentata alla cassa senza essere pagata.» «Sì, lo so», rispose l'inglese, «ma da uomo d'onore a uomo d'onore, parlate francamente. Pagherete, signore, anche queste con la stessa puntualità?» «A una domanda fatta con tanta franchezza», disse Morrel, «bisogna dare una risposta egualmente franca. Sì, signore, io pagherò se, come spero, il mio bastimento giungerà in porto, poiché il suo arrivo mi renderà quel credito che mi fu tolto dalle sventure che sono seguite e di cui sono stato vittima. Ma se per disgrazia il faraone, ultima mia risorsa sulla quale io conti, dovesse mancare...» Le lacrime inumidirono gli occhi del povero armatore. La porta si aprì e comparve una ragazza, pallida e con le guance bagnate di lacrime. Morrel si alzò, tutto tremante, e si appoggiò ai braccioli della sua poltrona. «Oh, padre mio!» disse la giovane giungendo le mani. «Perdonate vostra figlia di essere messaggera di una triste notizia!» Morrel divenne mortalmente pallido. Julie si gettò fra le sue braccia. «Oh, padre mio, padre mio!» disse. «Coraggio!» «E così il faraone è perduto?» domandò Morrel con voce soffocata. La ragazza non rispose, ma fece un segno affermativo con la testa, appoggiata al petto del padre. «E l'equipaggio?» domandò Morrel. «Salvato!» disse la ragazza. «Salvato dalla nave bordolese, entrata da poco nel porto!» Morrel alzò le mani al cielo con un'espressione di sublime rassegnazione e riconoscenza. «Grazie! Grazie, mio Dio!» disse. «Almeno non colpite che me solo!» Per quanto flemmatico fosse l'inglese, una lacrima gli inumidì gli occhi. «Entrate!» disse Morrel. «Entrate! Non state tutti lì sulla porta!» Infatti, aveva appena pronunciato queste parole che la signora Morrel entrò singhiozzando. Nel fondo dell'anticamera si vedevano le rozze figure di 7 o 8 marinai seminudi. Alla vista di quegli uomini l'inglese rabbrividì, fece un passo per andare loro incontro, ma si trattenne e si nascose invece nell'angolo più buio e appartato dell'ufficio. La signora Morrel andò a sedersi sulla poltrona, prese fra le sue le mani del marito, mentre Julie restava appoggiata al petto del padre. Un vecchio marinaio, abbronzato dal sole dell'equatore, avanzò arrotolando fra le mani ciò che restava di un cappello. «Buongiorno, signor Morrel», disse come se avesse lasciato Marsiglia il giorno precedente o giungesse da Tolone o da Aix. «Buongiorno, amico mio», disse l'armatore, non potendo fare a meno di sorridere in mezzo alle lacrime. «Ma dov'è il capitano?» «Ah, per quanto riguarda il capitano, signor Morrel, è rimasto a Palma perché malato, ma a Dio piacendo è cosa da nulla. E lo vedrete arrivare fra qualche giorno, tanto in salute quanto voi e me. Ah, sta bene? Ora parlate, Penelon», disse Morrel. Penelon fece passare dalla guancia destra alla sinistra il tabacco che masticava, quindi, ponendo la mano davanti alla bocca, si girò, lanciò nell'anticamera un lungo getto di saliva nerastra, avanzò un piede e, dondolandosi sulle anche, cominciò. «In quel momento, signor Morrel, avanzavamo con una buona brezza di sud-sud-ovest, dopo essere stati senza muoverci 8 giorni per la bonaccia, quando il capitano Gomard mi si avvicina. Bisogna che sappiate che allora io ero al timone e mi dice: "Compare Penelon, che pensate di quelle nubi che si levano laggiù all'orizzonte?" Io le stavo guardando proprio in quel momento. "Che ne penso io, capitano? Penso che vengano su un po' più presto di quanto sarebbe il loro diritto, e che siano più nere di quello che si convenga delle nuvole che non abbiano cattive intenzioni." "Abbiamo le vele troppo spiegate", disse il capitano. "Olà, preparatevi a serrare il velaccio e ad ammainare il controfiocco! Ebbene! Compare Penelon, che avete? Scuotete la testa!" "Perché al vostro posto non resterei tranquillo", gli risposi io. "Credo che abbiate ragione, vecchio", disse il capitano. "Sta per arrivare una raffica di vento!" "Ah, capitano!" gli rispondo io. "Chi volesse provare ciò che si prepara laggiù, non è che ci guadagnerebbe molto. Questa è una tempesta bella e buona, io me ne intendo." "Pronti a prendere 2 terzaroli nelle gabbie!" gridò il capitano. "Allentare le boline, bracciare al vento, ammainare i pennoni!" Non era sufficiente in quei paraggi, disse l'inglese. Io avrei preso 4 terzaroli e mi sarei sbarazzato della vela di trinchetto. Questa voce, ferma e sonora e inattesa, fece trasalire tutti. Penelon si fece schermo con la mano sugli occhi e guardò colui che commentava con tanta competenza la manovra del suo capitano. «Noi facciamo ancora meglio, signore», disse il vecchio con un certo rispetto, «perché imbrogliammo la brigantina e ponemmo la barra al vento per correre davanti alla tempesta. 10 minuti dopo imbrogliavamo i pennoni e procedevamo senza vele». Il bastimento era troppo vecchio per arrischiare una cosa simile, disse l'inglese. «Eh già, è andata proprio così, ed è ciò che ci ha perduti. In capo a 12 ore eravamo sballottati come se il diavolo fosse stato al timone e si aprì una falla. Penelon, mi disse il capitano, credo che coliamo a picco». In un batter d'occhio la scialuppa era in mare con gli 8 marinai dentro. Il capitano fu l'ultimo a scendere, anzi non scese, non voleva abbandonare la nave. Fu io che lo agguantai alla vita e lo gettai ai compagni. Dopodiché saltai anch'io, appena in tempo. Fatto il salto, il ponte si spaccò. Ecco com'è andata, signor Morrel. Parola d'onore, parola di marinaio. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it